Assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì. Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì. E vai con potere alla parola nella casa. E allora ben trovati, ben trovate a tutti i nostri amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. E vi trovate sempre qui nel nostro spazio radio della stampa rassegnata, che dall'inizio del 2018 ci siamo ritagliati per parlare con più precisione e costanza delle due opposizioni popolari che da anni animano l'area metropolitana fiorentina, soprattutto nel quadrante nord-ovest appunto dell'area metropolitana, che sono l'opposizione popolare alla costruzione dell'inceneritore di Case Passerini e la questione ben più ampia e con particolari profonde implicazioni su tutto, diciamo, il modello metropolitano fiorentino, che è la vicenda dell'espansione e costruzione del nuovo aeroporto di Peretola. La stampa rassegnata è d'altronde anche uno spazio radiofonico nel quale diamo un'occhiata alle notizie di cronaca locale, quelle sulle quali mi sento di avere qualcosa da dire, quelle sulle quali esistono vertenze che si intrecciano virtuosamente con le notizie di cronaca, che ci permettono di fare dei commenti il più possibile critici, il più possibile affidati alle parole e alle letture che movimenti, vertenze, comitati, associazioni di abitanti fanno di quello che accade intorno a loro. Come è consuetudine, vi ricordo le modalità, diciamo, nelle quali ci potete ascoltare. Se ci state ascoltando in onde medie di frequenza, siete sintonizzati sulla modulazione di frequenza del 1359, ci trovate sempre lì, e ci trovate il lunedì nella diretta delle 15:30, oppure ci trovate il mercoledì a mezzanotte, oppure il giovedì mattina alle 8:30. Questi sono i nuovi orari, diciamo, dei passaggi in radio, perché Radio Wombat fortunatamente dal passaggio che ha fatto sulle onde medie liberate e negli ultimi mesi si è arricchita di altre trasmissioni, e quindi ognuno stringe un po' la cinghia del proprio spazio radiofonico per fare spazio anche agli altri e aumentare così, diciamo, tra virgolette, il volume di fuoco che esce dalle nostre antenne e i nostri messaggi che aumentando i punti di vista, aumentando le letture, rendono la radio più ricca e in qualche modo il movimento più vivo. Quindi siamo ben lieti di ridurre la nostra programmazione per fare spazio ad altri contributi. Lo ripeto, quindi lunedì alle 15:30 c'è la diretta, il mercoledì a mezzanotte, orario magari un po' improbabile, ma comunque gustoso per chi può, e il giovedì la mattina presto, prestissimo, alle 8:30 per chi come me porta i bimbi all'asilo oppure fa qualcos'altro, comincia a cucinare o fa colazione o qualunque altra cosa. Noi ci muoviamo ritualmente con una settimana di ritardo rispetto alle notizie che appaiono sui giornali e o più o meno sui mainstream. Qualche volta incrociamo anche elementi o notizie, critiche, contributi che viaggiano sui social, ma sempre con una settimana di ritardo. Quindi, mentre ho preso in analisi la cronaca locale che è andata dal più o meno la sabato domenica 28-29 di aprile, arriveremo poi fino a notizie che riguardano questo sabato o domenica 5-6. Ci segniamo appunto sempre un paio di giorni per dare uno sguardo il più possibile informato e per quello che ci è appunto, ripeto, possibile, scusate la ripetizione, competente su quello che accade. Quindi, mentre appunto la stampa rassegnata di cui stiamo parlando andrà in onda nella settimana che va da lunedì 7 a domenica 13, parleremo delle notizie della settimana precedente. Per cominciare la puntata di oggi, che farò, diciamo, come dire, con una tensione alla lotta e alla mobilitazione, visto l'accelerazione e la presa d'iniziativa per quanto riguarda le vicende dell'aeroporto di Firenze. Vorrei però cominciare con una piccola notizia, diciamo, una sorta di, così, di giochino tra me e voi ascoltatori, diciamo, prima le buone notizie, se così possiamo dire. Quindi una notizia prima di parlare dell'aeroporto, riferita alla questione dell'inceneritore. Notizia, diciamo, indiretta che parla appunto della questione dell'incenerimento più in generale, ma che ha ovviamente delle ricadute di un certo peso per quello che riguarda la nostra vicenda più vicina e che ci riguarda più direttamente, che è appunto quella del proposto inceneritore di Case Passerini, sul quale da mesi è calato un sospetto silenzio. Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato che si è svolta il 19 di dicembre del 2017 e della quale di fatto nessuno ha notizia. Come ho già avuto occasione di dire, lo ripeto e chi mi sente ripetermi mi scuserà, si metta nei miei panni, nel senso che a volte è possibile che ci siano degli ascoltatori nuovi che non ci seguono in maniera continuativa, quindi non ci possiamo permettere, diciamo, il lusso di lasciare le cose esattamente al punto in cui le avevamo lasciate e di riprenderle come se tutti avessero già seguito il filo, insomma, anche se è un immaginario romanzo quello che si svolge tra me e voi ascoltatori, a volte anche con punte, diciamo, di complicità e intimità veramente da letteratura ottocentesca, però insomma qualcuno a volte potrebbe non saperlo, quindi io su alcune cose mi ripeto e mi perdonerete. In sostanza volevo semplicemente ripetere che la sospensiva che il ricorso da parte nostra, diciamo, dei comitati e degli abitanti aveva messo in stand-by le procedure autorizzative per l'inceneritore di Case Passerini, arrivata con l'accoglimento da parte del TAR del nostro ricorso nel novembre del 2017, ha tenuto ferme le bocce fino appunto alla famosa sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe dovuto dirimere la questione. Questa sentenza, come ho detto, c'è stata il 19 di dicembre, ma su questa sentenza non, insomma, non è pubblica. Ecco perché ho detto che è calato un silenzio sospetto. Sospetto nel senso che, essendo che c'era appunto clima di elezioni nazionali e che comunque anche gli aspetti locali vanno poi ad influire su quella che può essere una scelta dell'elettorato anche a livello nazionale, forse si è preferito tacerla e lasciarla lì dov'era. È chiaro che poi però il clima delle elezioni nazionali è passato e ad oggi questo silenzio però permane. Permane nel mentre però si susseguono non con particolare intensità come in altri momenti storici, in altre fasi della vita politica e della vita amministrativa dei nostri territori, ma comunque ogni tanto c'è qualche uscita su questo tema. D'altronde la questione dei rifiuti non può essere un tema che più di tanto può essere rimosso dalle nostre vite e quindi anche dalle nostre cronache e anche dai mainstream, magari distorto come è il caso di tante piccole notizie, una tra queste la guarderemo anche dopo, ma non può essere del tutto rimosso, quindi ogni tanto se ne parla. E se ne parla questa volta in che termini? Questa volta in termini curiosi e nello stesso tempo interessanti. È già la seconda volta che succede dall'inizio dell'anno. C'è un'intervista fatta dalla Repubblica che ad opera di Ilaria Ciuti, una giornalista conosciuta e che spesso si è misurata sulle vicende che ci riguardano, che ha intervistato il signor Fabrizio Bianchi, un epidemiologo di un certo livello, un epidemiologo che aveva partecipato anche anni fa, adesso non ricordo esattamente quando, e riguardando l'articolo a colpo d'occhio non lo vedo e mi sfugge, magari poi ne riparleremo più avanti. Perdonatemi, questo è il bello della diretta. Ebbene sì, avete sentito la suoneria del mio vecchio telefonino, vecchio modello, a qualcuno gli sarà scattata anche un po' di nostalgia, ma insomma il bello della diretta. Stavamo appunto dicendo che il signor Fabrizio Bianchi aveva partecipato anni addietro proprio alla stesura della valutazione di impatto sanitario, che viene abbreviata per quelli che ormai come voi saranno un po' edotti in questi acronimi, in VIS, valutazione di impatto sanitario. Quindi il signor Fabrizio Ciuti, epidemiologo di un certo livello, aveva partecipato proprio alla stesura della VIS riguardante la possibilità che in luogo Case Passerini venisse collocato il termovalorizzatore, così veniva definito, più diciamo popolarmente, anche più veritieramente definiti inceneritori. E fa aveva fatto queste valutazioni. Che è successo? È successo che in qualche modo c'è un'ammissione di, diciamo, di colpa, di responsabilità sul fatto che il quadro, intorno alla vicenda dell'inceneritore, intorno alla piana, è cambiato. C'è un'ammissione, sulle, diciamo, elementi, inquinanti e critici ad opera dell'incenerimento dei rifiuti, e quindi, viene in qualche modo la notizia, accolta, non come una festa, ma comunque come un ulteriore colpettino rispetto alla cultura inceneritorista da, settori significativi del movimento contro, l'inceneritore, del movimento, che guarda in avanti verso possibili alternative sul ciclo dei rifiuti. Tra queste componenti c'è ovviamente quella molto viva che ha animato questi anni di lotta all'inceneritore di Firenze, che è quella della Mamme No Inceneritore. Le Mamme No Inceneritore hanno scritto, diciamo, una lettera, come oggi si usa per dargli una particolare circolazione mediatica. È un post su Facebook nel quale possiamo, diciamo, leggere tranquillamente quello che scrivono. La lotta della gente contro la lobby degli inceneritoristi incassa un'altra grande vittoria. Sulla Repubblica di Firenze del 28 aprile è uscita all'interno intervista di Ilaria Ciuti a Fabrizio Bianchi, che smonta completamente la VIS, la valutazione di impatto sanitario, che sta alla base dell'autorizzazione a costruire l'inceneritore di Firenze, risalente a 15 anni fa. In poche parole, secondo l'epidemiologo e dirigente di ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, la VIS, che ha localizzato il progetto dell'inceneritore di Firenze in località Case Passerini a Sesto Fiorentino, è da buttare, perché i rischi per la salute da inquinamento non possono più essere considerati impianto per impianto e zona per zona, ma vanno considerati gli effetti cumulativi e diffusi, tanto più in area vasta metropolitana. La VIS sull'inceneritore di Firenze, oltre ad essere vecchia e quindi superata, è disattesa nelle opere di mitigazione, mai realizzate come il Grande Bosco. Superata da un imponente e impattante sviluppo infrastrutturale, come gli insediamenti produttivi, abitativi e commerciali, il traffico veicolare, l'autostrada e l'aeroporto attuali, e scellerate nuove opere previste come la terza corsia autostradale, il nuovo aeroporto e il nuovo stadio. Quello che diciamo da anni finalmente trova conferma anche in ambito scientifico e tecnico per voce di una delle persone che partecipò direttamente alla realizzazione di questa VIS. Ancora una volta lanciamo un invito al sindaco Nardella, al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ad aprire un tavolo per cancellare subito dal piano regionale dei rifiuti la realizzazione dell'inceneritore di Firenze e studiare le alternative da applicare. Diciamo il comunicato, comunicato molto breve, questa presa di posizione delle mamme non inceneritore la possiamo tranquillamente condividere e sposare, mettendo in evidenza come diciamo uno dei passaggi sicuramente importanti delle dichiarazioni di questo di quest'uomo, del signor Fabrizio Bianchi, epidemiologo di rilievo, come è stato sintetizzato, diciamo, in alcuni passaggi anche del comunicato delle mamme, va messo assolutamente in evidenza appunto la questione della impossibilità di procedere a valutazioni infrastruttura per infrastruttura e caso per caso, ma lo spostamento verso una logica sistemica e integrata nelle valutazioni. Quindi non è più possibile dire se solo l'inceneritore si può autorizzare, perché l'inceneritore va messo in relazione con tutto il resto delle cose. Tenete conto, approfittando diciamo di questa notizia, per dare un elemento di ulteriore comprensione e complessità della che in dentro la vicenda della VIS di cui si sta parlando e che viene oggi messa in discussione, c'era un elemento sicuramente strategico da parte dei proponenti che erano a suo tempo la società Q-Termo, formata da Quadrifoglio ed Era S.p.A. Oggi di questa società resta Era S.p.A., ma Quadrifoglio è diventato Alia, però sostanzialmente la società proponente l'inceneritore di Case Passerini è sempre Q-Termo. Dentro la VIS un passaggio e un ruolo, ripeto, strategico, lo svolgeva la proposta del teleriscaldamento. Sostanzialmente qual è l'idea? È un progetto ovviamente realizzabile, neanche tutto sommato molto complicato, nel senso che essendo che l'inceneritore è costituito da un grande bruciatore, l'idea del teleriscaldamento è quella di posizionare più o meno ad una certa altezza del bruciatore dei rifiuti delle tubazioni all'interno delle quali passa dell'aria. Quest'aria viene riscaldata dal calore prodotto dalla combustione e questa aria calda, che è aria pulita, che sta all'interno di tubi, di tubazioni chiuse, che non entrano in contatto con gli inquinanti e le microparticelle e tutto ciò che si sviluppa nella combustione del camino, quindi si sfrutta in questo senso solo il calore derivante dalla combustione dei rifiuti. Quindi quest'area verrebbe poi spinta all'interno di abitazioni o di altri edifici al fine di costituirne il riscaldamento. Idea, diciamo, buona rispetto all'utilizzo del calore, idea ovviamente malsana perché viene associata alla combustione di rifiuti e quindi da rifiutare in toto all'interno di un progetto di incenerimento di rifiuti, però idea e in qualche modo passaggio progettuale che svolgeva un ruolo molto importante e centrale rispetto alla VIS, proprio perché qual era il ragionamento che veniva fatto dai proponenti l'opera con le istituzioni competenti e gli enti che dovevano analizzare il progetto, che chiudevano non uno ma tutti e due gli occhi. Il ragionamento era: siccome noi forniremo sia per alcune case di campi, sia per altre di Sesto Fiorentino, addirittura per il riscaldamento dei futuri terminal del futuro nuovo aeroporto, siccome noi forniremo dell'energia, o meglio del calore derivante dalla combustione dei rifiuti, permetteremo un risparmio nella produzione di CO2 ed altri inquinanti, facendo sì che si possano spengere le caldaie, cioè migliaia di famiglie non avranno più bisogno delle caldaie a metano perché sfrutteranno per riscaldare le proprie abitazioni il calore proveniente dalla combustione dei rifiuti attraverso il progetto del teleriscaldamento. Ecco, questo progetto in qualche modo, come ho detto, già molto discutibile proprio perché sfrutterebbe il calore prodotto dalla combustione di rifiuti e non di altro, ma questo progetto in realtà non esisteva. Avete capito proprio bene, cioè nella VIS è stato fatto questo calcolo, diciamo integrato, cioè si tolgono tot mila caldaie e quindi si può autorizzare il grande bruciatore dell'inceneritore. Si può fare questo benché questo fosse solo un progetto, ma neanche un progetto eseguibile, semplicemente l'inceneritore, il modello di inceneritore che sarebbe stato costruito su Case Passerini sarebbe stato predisposto per il teleriscaldamento, che è tutt'altra cosa rispetto a dire che il teleriscaldamento ci sarebbe veramente stato insieme alla costruzione dell'inceneritore. Come voi capite bene, una cosa è costruire un bruciatore o un caminetto e infilarci un tubo, tutt'altra questione è portare poi questi tubi dentro le abitazioni della gente e fare in modo che veramente questo calore permetta il riscaldamento delle abitazioni e permetta che le persone facciano a meno nelle proprie unità alloggiative e abitative delle caldaie. Quindi tutto questo era del tutto finto, però era valso all'interno dell'analisi della VIS per autorizzare il bruciatore. Non solo per autorizzare il bruciatore, ma tenete anche conto che la VIS, quella di cui si è parlato fino ad ora, era relativa, è stata data relativamente alla proposta iniziale da parte di Cutermo di un inceneritore con capacità combustiva di 136.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Rispetto a questa cifra inizialmente proposta e calcolata e sulla quale sono state eseguite ovviamente le analisi e calcolati carichi di inquinanti, di emissioni di CO2 e quant'altro, in realtà quando Cutermo si è messa a tavolino a fare dei conti e si è accorta che bruciando 136.000 tonnellate l'anno il progetto non era conveniente e profittevole, si è chiesto un'integrazione alla regione toscana per arrivare a una capacità di combustione di 198.000 tonnellate. Quindi si è passati in un attimo da 136.000 a 198.000. Ovviamente la regione aveva dato il suo benestare, benché le valutazioni di impatto sanitario fossero state fatte per un carico ovviamente molto inferiore, perché da 136.000 a 198 non sto io a fare il conto, ma si sta parlando di migliaia di tonnellate di rifiuti l'anno, quindi non di barzellette o inezie, insomma non è come cambiare un campanello dentro un condominio, è molto molto molto di più. Eppure tutto questo era stato possibile. Oggi la questione sicuramente la guardiamo, come ripeto e come hanno scritto anche le mamme, come un passaggio in avanti nella direzione di mettere, scrivere la parola fine sulla vicenda del proposto inceneritore di Firenze Case Passerini, ma la guardiamo ancora con particolare sospetto e tenendo la guardia molto alta, proprio perché il rischio è quello che la posizione politica più avanzata e che possa diventare maggioritaria e preponderante sia quella che viene incarnata sostanzialmente dal presidente della regione Enrico Rossi, il quale in buona sostanza sta dicendo: noi facciamo in modo da non collocare l'inceneritore nella piana, di modo da alleggerire questa zona da già satura di inquinanti, da ulteriore aggravio di inquinanti, perché questo ci permetta la costruzione del nuovo aeroporto. Questa è una posizione politica particolarmente insidiosa, proprio perché rischia anche di andare a separare le lotte, lotte che per adesso non si sono separate, e sembra che anzi tutte le componenti che in questi anni hanno formato il gruppo di lavoro, dandosi un patto di lavoro comune, una condivisione degli obiettivi, regge e regge bene, però sicuramente sui grandi numeri rischia di essere una posizione penetrante e fuorviante. Noi come sempre la rispediamo al mittente e diciamo che sulla piana fiorentina non ci deve essere né l'aeroporto né la terza corsia autostradale né tantomeno il maledetto inceneritore di Cutermo, e non si devono fare affari, ma in questo territorio ci deve essere la possibilità di costruire il parco agricolo della piana, che è un elemento di programmazione strategica e nel quale vediamo possibilità di futuro e di trasformazione sia in senso ecologico e diciamo di geografia urbana, sia in senso delle relazioni sociali che in esso possono andare a innestarsi. Quindi questa era la notizia che, ripeto, è una notizia, in qualche modo la notizia positiva. Notizia positiva la quale, come dicevo già, fa poi da contraltare una notizia del 1º maggio che, come continuamente vediamo su tutti i giornali della cronaca locale, dal Corriere alla Nazione in particolar modo, che ha aperto tutta una sua piccola sezione interna per appunto le denunce dalle buche alle biciclette mal parcheggiate, a chi parcheggia incivilmente, tra virgolettato, sulle strisce pedonali o sugli sbassi dei marciapiedi per le carrozzine, fanno tutto un gran buglione come se i problemi fossero tutti uguali. In questo caso, dal Corriere Fiorentino del 1º maggio c'è grandi foto a colori per i cumuli di rifiuti in via Santa Monaca e in via Sant'Agostino. In civiltà e ponte, benvenuti alla discarica Oltrarno. Ecco, quindi diciamo l'aspetto che volevo sottolineare di questa notizia non è tanto il fatto che ci siano rifiuti per strada, che appunto, ripeto, è una, diciamo, fa parte della nostra esperienza quotidiana, ma quanto mettere in evidenza come il meccanismo di narrazione e di racconto fatto dal giornale mette subito in risalto e indica come responsabilità due cose: l'inciviltà e il ponte. Si sta parlando ovviamente del ponte festivo del 1º maggio, quindi il fatto che i lavoratori del quadrifoglio, anzi di Alia, scusate l'inconscio di Alia, l'azienda che appunto ha sostituito Quadrifoglio nella gestione dei rifiuti, nello spazzamento e nella pulizia delle strade. Quindi evidentemente ci sarà stato un giorno di festa, forse al massimo due, o forse tra i lavoratori possiamo pensare che, un po' come avviene dappertutto, ci sarà qualcuno che ha fatto festa il 1º maggio e alcune ferie il giorno prima, non certo una settimana intera di festività, anche perché hanno le categorie protette, proprio perché devono assicurare i servizi minimi. Diciamo che è esperienza quotidiana che i rifiuti siano per strada e mai nella narrazione dei giornali viene indicata in nessuna parte mai come responsabilità l'azienda che gestisce la pulizia delle strade. Cioè si fa tanto parlare di inciviltà, che sicuramente è un aspetto che caratterizza le nostre società, in particolar modo facilitata anche dalla vita nelle aree metropolitane, dal fenomeno magari diciamo di un certo turnover nelle abitazioni, per cui è gente che ha un rapporto con il territorio talmente labile da in qualche modo fottersene di dove scarica un rifiuto, che sia un ingombrante, una valigia o quant'altro. Però è mai possibile che, con tutto il bisogno di lavoro che c'è, aziende pubbliche, pubblico partecipate, anche se ovviamente sempre più tendenzialmente privatizzate e con prevalenti modalità di gestione da azienda privata, non abbiano il personale per raccogliere i rifiuti neanche nelle zone centrali della città, nelle quali la pressione, il pressing sul decoro è a questi livelli? È veramente ridicolo. E ridicolo, forse ancora di più, è che ogni qualvolta compaiono sui giornali, questa volta è il Corriere, ma molto più spesso, come ho detto, la Nazione o anche la Repubblica, non fanno eccezione, si parla sempre e solo di cause contingenti, come se invece il problema non fosse strutturale e non riguardasse fortemente tutto il modello di gestione del rifiuto. Tenendo anche conto che nelle foto che io ho davanti, ma voi non vedete, si sta parlando dei cassonetti collocati in via Santa Monaca, via Sant'Agostino, quindi Santo Spirito, diciamo il tratto che, per dirla, è vicino alla sede dell'AMPI. Si parla anche dei cassonetti interrati, un'altra delle pratiche che hanno privilegiato solo ed esclusivamente un approccio diciamo, un approccio legato al decoro urbano, legato ai rifiuti, che che poi in che cosa si risolvono? In niente, perché hanno fatto un casino totale, speso non so esattamente quanti soldi, ma possiamo immaginare che anche solo lo scavo, l'andare sottoterra e poi il sistema del ritiro, che ovviamente è goffo, è impattante, anche di un certo impatto rispetto alla viabilità, così complicato per mettere i rifiuti sottoterra di modo che nessuno li vedesse, e poi, siccome non sono all'altezza neanche di svuotarli con le tempistiche giuste, la gente poi è costretta ad accumulare i rifiuti sui bordi del marciapiede. Certamente ci sarà un elemento di inciviltà, perché c'è, ma certamente l'inciviltà deve essere combattuta anzitutto con il buon esempio, non solo con discorsi moralistici o con le fantomatiche multe di cui si è di cui si è più volte parlato e che poi appunto non risolvono il problema. Quindi rinviamo le responsabilità a chi ce l'ha, cioè alle aziende di gestione del rifiuto. Cambiamo totalmente argomento, vado su una notizia del Corriere Fiorentino del 3 maggio del 2018, notizia che si sposa in qualche modo con alcune delle notizie che abbiamo già segnalato in questi mesi di stampa rassegnata, riguarda l'utilizzo del patrimonio storico-artistico a fini commerciali, a fini di profitto privato, di immagine e di appropriazione del capitale simbolico fornito dalla storia, dalla cultura e dal valore artistico di alcune località, palazzi, situazioni, complessi edilizi e quant'altro. Di che sto parlando? Prima sorpresa di Pitti Uomo, la sfilata della Maison nel piazzale della chiesa. Il 13 giugno la passerella della Griff nel piazzale davanti alla chiesa di San Lorenzo. Leggo, sto appunto leggendo titolo sottotitolo e leggerò alcuni passaggi per un commento che forse si commenta da solo di questa notizia. Una sfilata di moda, la prima, dentro il monastero della Certosa del Galluzzo a Firenze. Si svolgerà la sera del 13 giugno e sarà quella del marchio Roberto Cavalli. Dopo l'addio dei padri cistercensi, che nel 1958 erano subentrati ai Certosini, fondatori appunto della Certosa del Galluzzo, il monastero, che è fondato nel 1341 per opera del mercante fiorentino Niccolò Acciaiuoli, e oggi proprietà del demanio. È stato infatti concesso alla diocesi, che lo ha affidato a una comunità religiosa, la comunità di San Leolino, allo scopo di garantire due cose. Da un lato la presenza di una comunità religiosa, che però evidentemente è l'aspetto secondario. Dall'altro, che è la cosa che interessa sicuramente di più, promuovere lo spazio, che impegno che subito è stato rilanciato dalla comunità di Panzano in Chianti, che ha deciso di aprire il complesso della città ospitando al suo interno mostre, eventi culturali e adesso che cosa per l'appunto? Uno degli appuntamenti simbolo del calendario di Pitti Immagine, da sempre attenta a scovare, a far conoscere luoghi suggestivi quanto poco conosciuti di Firenze per le sue sfilate. Ci sembra che sinceramente la Certosa non sia un luogo poco conosciuto che grazie a Roberto Cavalli, al suo marchio, verrà fatto conoscere a Firenze. Ci sembra assolutamente il contrario, e questa diciamo inversione cronologica e logica fatta dal giornale sia proprio un tentativo di elogiare un comportamento che invece prende, no? Cioè, è come se si volesse dire che è Roberto Cavalli che dà e non prende, e invece è proprio il contrario. Non è Roberto Cavalli che permette all'umanità di entrare in possesso di un pezzo della propria storia, del proprio patrimonio storico-artistico prima sconosciuto, cioè lui investe e gli dà visibilità. È proprio esattamente il contrario, cioè è Roberto Cavalli che va in uno dei luoghi già assolutamente più noti, conosciuti e visitati del nostro territorio, che è la Certosa del Galluzzo, per fare una sfilata. Quindi non è Roberto Cavalli che dà alla collettività, ma è Roberto Cavalli che prende alla collettività e utilizza questo capitale simbolico per fare che cosa? Per fare immagine, per fare audience, per ottenere dei click, dei like e rendere più suggestivi e affascinanti i propri eventi. È sicuramente questo uno degli elementi portanti della competizione in alcuni settori purtroppo, ahinoi, strategici dei nostri territori, quali quello della moda. Nonostante il fatto che di fatto il marchio Roberto Cavalli, che sì, si chiama Cavalli, in qualche modo incarna la storia fiorentina, però incarna anche diciamo una storia neoliberista a tutti gli effetti, perché il marchio fondato negli anni 70 dallo stilista Roberto Cavalli, ho ripreso a leggere perché non ne fanno mistero, oggi è azionista di minoranza del gruppo Cavalli, che dal 2015 è acquisito al 90% dal fondo di investimento Clessidra SGR. Ecco, quindi questa è una storia, diciamo, italiana proprio in questo senso, cioè c'è un marchio di moda che però a un certo punto diventa azionista di minoranza in una situazione di associazione di capitali ben più ampia e quindi di questo fondo. Tra l'altro chiude l'articolo svelandoci che non è la prima volta che il brand Cavalli lega il suo nome a doppio filo alla città d'origine e alla kermesse dedicata alla moda maschile. Già nel 2006, in occasione della 70ª edizione di Pitti Uomo, Cavalli fu ospite speciale di Firenze, celebrando, la sua, appunto, celebrando con una sfilata dei suoi capi della collezione maschile sul Ponte Vecchio. Anche quella volta, come questa volta la Certosa del Galluzzo, il luogo non era mai stato usato prima di allora per un evento dedicato alla moda. Poi Ponte Vecchio l'abbiamo visto anche concesso alla famiglia Montezemolo per una cena, se non erro, della Ferrari, mi potrei sbagliare, ma credo di ricordare bene, sempre alcuni anni fa, e siamo all'interno di quel utilizzo a fini commerciali e di marketing del nostro patrimonio storico, artistico e culturale che no, non è più vocato alla formazione del cittadino e alla costruzione della, diciamo, anche dell'identità storica di un popolo e di una società, ma trova purtroppo la sua principale vocazione nel fare da scenario sicuramente e ovviamente suggestivo e di pregio a eventi come questo. E andiamo a chiudere su appunto un breve riassunto su quella che è la vicenda della battaglia che si sta dando sull'aeroporto di Firenze, fatta con l'attenzione che vi dicevo all'inizio, perché proprio stasera, per chi ci sta ascoltando in diretta, nella diretta delle 15:30 del lunedì, mi raccomando, stasera alle ore 18:30-19, ma se non riuscite ad arrivare in orario anche un po' oltre, non importa, eventualmente guardate i social o telefonate, fatevi vivi, contattate qualcuno che conoscete, ma fate il possibile per esserci perché va in scena sicuramente un passaggio non da poco della battaglia, appunto come l'ho definita, non in senso propriamente militare, ma se intendiamo appunto la politica come la prosecuzione della guerra con altri mezzi, per certi aspetti la parola battaglia non è tirata così fuori. Diciamo, per chi, scusate, mi sto incespicando perché sto cercando di riordinare un attimo le idee, visto che sono veramente tante le cose da dire e moltissime le notizie di cronaca uscite proprio in questi ultimi 10 giorni. Volevo riprenderlo un po' da dove le avevo lasciate per chi ci ha già sentito, ma insomma, si è costituito a una quindicina di giorni fa ormai il Comitato per il Sì. Comitato per il Sì lanciato su iniziativa di Confindustria, del CNA, della Confcommercio, della Camera di Commercio, e questi sono i principali attori protagonisti di questo Comitato per il Sì. Comitato per il Sì che sicuramente si muove nella debolezza ormai accumulata dal campo renziano, che fino ad oggi aveva permesso una marcia spedita delle pratiche autorizzative per l'aeroporto, non ultimo il passaggio sicuramente decisivo del luglio del 2017, compiuto grazie al decreto Galletti, un decreto di cui abbiamo già parlato in alcune cronache locali, a chi dovesse interessare lo può andare a recuperare tra i nostri podcast, un decreto che ha rivisto tutta la normativa relativa alle VIA, cioè alle valutazioni di impatto ambientale, e che quindi non riguardava solo l'aeroporto di Firenze, ma indiscutibilmente, su commento e su accordo di molti analisti sparsi per l'Italia, è sicuramente stato cucito per l'aeroporto di Firenze, anche se ovviamente le ricadute non sono relative solo a quello. Quindi è venuto un po' a mancare, sia dopo il referendum costituzionale del dicembre, sia dopo la tornata delle elezioni nazionali, venendo un po' a indebolirsi il campo renziano, hanno ben pensato i nostri padroni del territorio, che si vorrebbero accreditare nel futuro non solo più padroni della terra e dei corpi, ma quindi anche dei cieli e della terra, hanno ben pensato che fosse necessario utilizzare parte delle loro risorse, del loro capitale relazionale, al fine di mobilitare in qualche modo la società e la comunità fiorentina in vista del raggiungimento del loro obiettivo, cioè la realizzazione di un aeroporto intercontinentale al posto di quello che considerano uno scalo aeroportuale piccolo, inadatto alle esigenze di crescita aeroportuale della città di Firenze. Questo è in buona sostanza quello che è successo fino ad oggi e come si è articolato. Ci sarà appunto il 7 di maggio, quindi stasera, per chi ci ascolta in diretta lo ripeto, quindi ci sarà stasera 7 di maggio al Palaffari una riunione la prima riunione di questo neonato comitato, più che una vera e propria riunione, ovviamente essendo anche stata lanciata alle 19 di sera, si va configurando come una kermesse il cui scopo neanche troppo nascosto è quello di fare audience, di fare evento, di essere partecipato, nel senso di più che partecipato, visitato, sia visitato con il corpo, sia forse ancora di più visitato a livello virtuale attraverso la rete e il web 2.0, che è uno degli elementi sui quali ovviamente tutta questa accozzaglia, però accozzaglia forse non perché sia offensivo, che non importa diciamo offenderli, perché si offendono per certi aspetti da soli e sono smascherati, più che accozzaglia, scusate il termine accozzaglia l'ho rimesso in discussione, perché è forse un po' sinonimo di una alleanza tra diversità che non stanno insieme. Invece forse l'alleanza tra questi soggetti non è così sconnessa. Ecco, c'è l'adesione a un comune progetto politico, che è un progetto politico di uso della città a fini di profitto, un uso della città che già da tempo ha visto come driving force, si dice oggi in inglese, in senso aziendale, cioè quindi come forza trainante, alcune grandi aziende, alcuni grandi marchi forti e lanciati nelle attività dell'export, nello stesso tempo però capaci di lavorare e fare profitto con un estrattivismo 2.0 attraverso appunto il capitale simbolico e culturale, storico, artistico della città di Firenze, importando turismo. Chiaramente, come sapete, anche nell'economia diciamo classica il turismo è considerabile come una forma di export al contrario, cioè invece che esportare cose che non si possono spostare, cioè sfido chiunque a portare in giro per il mondo il Duomo di Firenze piuttosto che la Chiesa di Santa Croce, dall'altra, quindi non potendo spostare appunto i monumenti si importano i visitatori, ma di fatto è una forma di export al contrario. E quindi soggetti molto forti in questo campo, operatori dell'immobiliarismo, operatori delle grandi opere, operatori finanziari, operatori nel campo dell'alta moda, operatori nel turismo congressuale e fieristico, che vorrebbero per Firenze un turismo che più spende, meno cialtrone, meno di massa probabilmente, ma nello stesso tempo più danaroso e che più lascia risorse sul territorio. Operazione molto discutibile, proprio perché se da una parte vuoi turisti che spendono di più ma minori in numero, dall'altra parte non si spiegherebbe o non si va a comprendere la necessità di un aeroporto intercontinentale che ha come obiettivo una moltiplicazione ingente anche del numero dei voli, oltre che della capacità di trasporto degli aerei, che sulla famosa pista di 2400 metri potrebbero atterrare aerei di dimensioni maggiori di quelle che atterrano nell'attuale pista di 1750 e poco più. Quindi quello che ho detto resta valido, e quindi questa serie di forze trova coesione per andare al Palaffari questa sera. Vanno appunto a fare questa prima riunione e nel frattempo lanciano anche, diciamo, un'offensiva a tutto tondo. Da una parte, come possiamo vedere in un articolo un po' datato ma che ho tenuto, che è di Repubblica del 20 d'aprile, via all'operazione espropri per la nuova pista dell'aeroporto. L'ENAC ha tirato fuori, mentre chiede fortemente la conferenza dei servizi per andare a definire il più possibile la tempistica e le modalità di attuazione del progetto di costruzione dell'aeroporto, ha tirato fuori anche la lista delle proprietà che dovrebbero essere espropriate, lista molto ampia, che contiene centinaia di proprietà e quindi anche di nomi di proprietari, che va dal comune di Firenze al comune di Sesto al comune di Campi, molto interessato anche il comune di Signa, tenendo conto sì che è geograficamente dislocato, ma che nello stesso tempo, proprio perché l'aeroporto di Firenze tra terminal e nuova pista comporterebbe una fortissima cementificazione di un bel pezzo di territorio, questa cementificazione significa poi impermeabilizzazione del suolo, e quindi in caso di piogge l'acqua che non può più essere assorbita da quei terreni perché diventati cemento e asfalto, dove può essere assorbita? Vanno create quindi delle vasche, vanno trovate delle cosiddette compensazioni idrauliche, e quindi Signa è particolarmente interessata dagli espropri e dal progetto aeroportuale, proprio perché su Signa, in molti terreni del comune di Signa, che vengono individuate e trovate le compensazioni idrauliche per appunto lo scolmatoio delle acque data dall'impermeabilizzazione dei terreni che verrebbero ricoperti da pista o terminal o gallerie commerciali o tutto quello che gira intorno all'eventuale nuovo aeroporto di Firenze. Quindi è, diciamo, ad oggi la pubblicazione di questo documento, che chiede contemporaneamente alla regione toscana la conformità urbanistica per poter procedere agli espropri, ha ad oggi un valore quasi esclusivamente retorico e terroristico, cioè quello di convincere i proprietari che il destino dei loro terreni è vincolato e condizionato dall'esistenza di un aeroporto, ma ad oggi non c'è ancora possibilità di procedere, proprio per i numerosi problemi anche di tipo amministrativo e burocratico che ancora pendono sull'aeroporto. Dall'altra parte, l'offensiva è qualificata anche da un altro elemento da non sottovalutare, che è: per Etola il fronte del sì va sul web. Questo lo leggo come titolo da un articolo del Corriere Fiorentino del 3 maggio, firmate "la nuova pista è di tutti". Da oggi online il sito del comitato, già tante adesioni e lunedì tutti al Palaffari. È Leonardo Bassilichi o Bassilichi, ancora non mi è riuscito di capire dove va l'accentazione su questo cognome, presidente del comitato per il sì alla nuova pista. In piccola foto c'è poi ovviamente il manifestino, un manifestino a colori che compare anche all'interno della Nazione, dove ovviamente il comitato per il sì, sapendo che è il giornale letto nei bar o più che letto sfogliato, ha acquistato il paginone a colori centrale che, come ho già avuto occasione di ricordare, ricorda molto da vicino quella che era la campagna propagandistica che aveva accompagnato i lavori iniziali del progetto di alta velocità del passante TAV a Firenze. Come è finito? È finito nella merda più totale, o meglio sta finendo nella merda più totale. Finito si fa per dire tra virgolette, perché ancora la questione non è affatto chiusa, i cantieri sono aperti, Condotte SPA è fallita, Duccio Astaldi, presidente di Condotte, è ancora arrestato, e i lavoratori non riscuotono lo stipendio da febbraio, sono rimasti solo una sessantina di operai, eppure è ancora lì, e qualcuno come Nardella e Renzi continuano a dire che le grandi opere vanno fatte tutte. Ci auguriamo fortissimamente che non comincino mai a mettere le mani sui terreni per la costruzione del nuovo aeroporto, proprio perché la possibilità che succeda ancora una volta come il sistema TAV ci ha insegnato è davvero concreta, cioè soldi e soldi pubblici che, tanto per cominciare, sono 500 milioni di euro pubblici, solo per cominciare. Date tutte le criticità anche a livello progettuale, le varianti e i cambi in corso d'opera sono all'ordine del giorno. Soldi ovviamente che noi rimetteremo con le casse pubbliche, soldi che potremmo investire e dovremmo investire nella riconversione ecologica, che soldi che dovremmo investire nel sostegno alla disoccupazione, nello sviluppo di nuova e migliore imprenditoria o occupazione verde, che dovremmo investire nell'accoglienza ai migranti, in tutta una serie di cose, scuole, formazione e sanità ovviamente vanno da sé, le case popolari e l'edilizia residenziale pubblica va da sé, tutta una serie di capitoli della spesa pubblica che vengono continuamente tagliati ad opera anche delle grandi opere che dobbiamo per forza fermare. Quindi, per fermarle, un passaggio fondamentale è proprio quello di questa sera, lunedì 7 maggio alle ore 18:30, tutti e tutte davanti al Palaffari, cioè in piazza Aldua, al presidio lanciato dai comitati, nello specifico dagli abitanti riuniti e auto-organizzati intorno al presidio Non Inceneritori e Non Aeroporto dello Smannoro. Con questo vi saluto, un pugno chiuso per chi c'è a stasera, e a risentirci alla prossima stampa rassegnata.